come tutti i mercoledì, Port Royal. Non sarei che più. Abbassale. Dalle 21, per una volta precisi. Abbassale con le canzoni, senza fatti e soluzioni. L'immunità. Non sarei che più. La clandestinità. Alle 23 e vallo a sapere. La sposa in bianco e il maschio forte, ministri puliti, buffoni di corte, ladri di voti. Super pensioni. Non tregge più. Ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commendatori, diete politicizzate. Evasori legalizzati. Non tregge più. Auto blu, sangue blu, mozzarelle blu. Pillole blu, amore blu, rock and blues. Ehi la la, non te regge più. I CPT, non te regge più. Figli UDC, non tregge più. PDLPD, Lega PC, UDC, DV, UDC, DV, scile pote. Non tregge più. Avvocato Ghedini, Massimo Insolini, il bunga bunga, la Bossi Fini, dribbla Totti che passa Chiellini, Cassano Zambrotta e poi Pazzini, la Gelmini. Non tregge più. E Briatore. E non tregge più. Vespa, Belpietro, Fede Santoro, Tanzi Marchionne, Lele Mora, Simona Ventura, Morgan, Sgarbi e Corona. Onorevole Eccellenza, Cavaliere Senatore, Nobil Donna Eminenza, Monsignore Vossi Asceri, Mona. Il 2 giugno è la festa della Repubblica, per carità. Ma noi ricordiamo ogni anno il profeta Rino Gaetano. Non tregge più. Il vernissage. Non tregge più. Il super enalotto. Il 48. Il 68. L'EP108. Ed il G8. Sulla spiaggia di Lampedusa. Indovina pacche e illusioni. Lotteria 300 milioni. Mentre il popolo si gratta. Adama c'è chi fa la patta, a 7:30 c'ho la matta. Mentre vedo tanta gente che non c'ha l'acqua corrente, non c'ha niente. Ma chi me sente, ma chi me sente? E allora amore mio ti amo, che bella sei. Vali per sé ci giurere, ma è migliore. Che bella sei, e ballaro, che bella sei. Vali per sé ci giurere, sei meglio tu, non te regge più. Che bella sei, vali per sé ci giurere. Ci sente da un po' sia sulla prima Pirate Radio che su questa, che è molto meglio, Pirate Radio, lo sa. Cominciamo sempre un po' particolari, ricordiamo Rino Gaetano con un paio di cover fatte bene e poi chiuderemo con gli originali. Tra un pochetto intervista a Martina Gaironi, fresca medaglia d'argento, medaglia d'oro, scusate, sui 100 metri ieri, campionessa europea, uno che l'argento l'ha visto forse un par di volte. A mano ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso. A mano gliela famo, no? Questo è Tony Montano, produzione Red Golden Green. Anche questa settimana prendiamo una pausa dalla collaborazione con Federico Virtus. Mano a mano si scioglie nel pianto quel dolce ricordo sbiadito. Martina Gaironi sta a falle europei, partirà per le Olimpiadi. Una stanza, non c'erano soldi. Una mezz'ora per augurai è un bel in bocca al lupo, se lo merita tutto. Sera, ma dammi una mano e torna vicino, può nascere. Big up Antonello, Tony Montano. Qualche anno fa, un paio d'anni fa, è uscito questo pezzo, a mano, del nostro amato Rino Gaetano, specie per noi che siamo di Montesagro, no? Io no. Produzione Red Golden Green. Ma adesso cominciamo. Intervista Martina Caironi, campionessa paralimpica, più volte campionessa paralimpica, e ancora ieri medaglia d'oro agli europei in Polonia che si stanno svolgendo proprio in questi giorni. Cominciamo così, questo è Port Royal, tutti i mercoledì dalle 21 alle 23, Pirata e Radio. Siamo onorati ed orgogliosi di ospitare questa sera Martina Caironi, campionessa paralimpica nella velocità e nel salto in lungo, plurimedagliata, l'ultima medaglia d'oro nei 100 metri arrivata ieri agli europei che Martina sta disputando in Polonia e che domani pomeriggio la vedranno anche protagonista nel salto in lungo. Martina l'ho conosciuta qualche anno fa nelle Reggae Yard di Bergamo e non solo e proprio da qui partirei con questa intervista chiedendoti e poi le andiamo ovviamente a sentire tre tune reggae alle quali sei legata e magari se ti va anche la motivazione. Eccomi! Allora, il mio legame con la reggae music comincia intorno al 2012-2013, quando conosco dei nuovi amici a Bergamo che mi portano sulla buona strada e mi iniziano al mondo reggae. E da lì il primo festival, Festival Over Jam, alla sua prima edizione, e se non sbaglio era il 2013, e lì dove appunto ho conosciuto questa canzone, Sweat, Inner Circle. Questa mi fa pensare proprio alla sensazione lì di quando si stava in mezzo alla folla e non conoscevo questa canzone, quindi lì l'ho conosciuta. Questa è la prima canzone per voi. E cominciamo allora con le canzoni che Martina ci ha richiesto, l'avete già sentito perché è stata bravissima, ha preparato proprio l'intro direttamente lei. Cominciamo con Inner Circle, Sweet, La La La Long. I've been watching you, a la la la la long, a la la la la long, long, long, long, long, come on. A la la la la long, a la la la la long, long, long, long, long, hey. Standing across the room, I saw you. Looking in your big brown eyes. Seconda canzone, Mellow Mood, Only You. Oh, you, oh, only you, shining you, oh, only you. Praticamente io, il Gretone e altri, soprattutto io e la Greta, siamo diventate delle specie di gruppi, no, in senso lato, nel senso che abbiamo iniziato a seguire i Mellow Mood dai loro esordi fino ai palchi più grandi e stavamo sempre sulla destra davanti al Giulio Frausin, bassista, e facevamo a gara chi riusciva a toccargli le scarpe e per gioco gli urlavamo Only You, eccetera, eccetera. E quindi questa è la seconda canzone per voi, grandi Mellow Mood. E questa allora è Only You, Mellow Mood. Love it! Come me all restless. Pretty princess, pretty princess, pretty princess. Bless up Mellow Mood, i bassi che scureggiano, che ci muovono la panza, no? Bless up Martina Caironi. Tra un pochetto continuiamo con la terza cena e poi con l'intervista. Andiamo in Salento con Mamma Marias, anche lei grandissima artista che ho potuto vedere solo due volte, e questa è una canzone che tra le tante sue bellissime hit, diciamo che quando la sento non riesco a fare a meno di muovere il sedere e tutto quanto. Grande Mamma! E per questa terza canzone, per questa terza artista, Mama Marias, abbiamo scelto Bless the Ladies e subito dopo continuiamo con l'intervista a Martina Caironi. When I listen this tune, my man scream Bless the ladies. There's the mother of the future. Give them to the creator and sing Bless the ladies. E cambio tune era studiato, eh? When I listen this tune, però se partivamo già con quella che aveva chiesto Martina, poi finiamo con la trap. Questo è Port Royal, tutti i mercoledì 21-23, Pirata e Radio. Criate, l'uomo non vanno sempre, sempre vanno ringraziate. Questa è la regola, e poi scinge lo sape. Cazzo un cavenano, le bimbe le vanno rispettate. Invece quante se ne vedono da me in sale strade. Minacciate, maltrattate, cadate, deportate. Dall'uva isi loro pece venono accecate. Da la promessa della patria che ludere le pace. When I listen this tune, my mom scream Bless the ladies. That's the mother of the future. Give that to the creator. Bless the ladies. Make what I do. When I listen this tune, you know the messages. Bless the ladies. Never present a women of the plan. So me I chant, chant. Bless the ladies. China ne care, chino si capitan gold. Da wanya da na sojete te na nanu gold. Nanzo bo nesh kita mobu kula la den sol. Mamo son grade da chanen gued le pantalon. A chi sa masca lange vole na lezion. La scusa du sesso debole, non ha nie bon. Na mini gole na porto giusta fa calazion. La busa la valenza in città con la luna cu sol. Troppa diritta venena violat. Diritta desa sesa senza saditat. Diritta denna jesa condizionate comanat. Danno padre padrona cambona. La legge tu mascara da casa, femmina menate, femmina velata. Capenne loro venne sfregiata, bruciata. Femmina ma non è del turismo sessuale. Femmina meridionale, sotto me la storia è sempre uguale. When I listen this tune, mia girl singa Bless the ladies. Bless the ladies. This is the mother of the future, get down to the creator. Bless the ladies. And what I do, when I listen this tune, you know the messages. Bless the ladies. Represent the women of the plans, over me a chant, chant. Bless the ladies. In every way and now come the rhythm. This woman wanna see with this son what I think. The message is so clear, you know what I mean. My mama we ask, feel the girl them sing. Bless the ladies, every girl is a miss. Me no wanna see no tears, no pain on my girl face. But if it's a bless the ladies, every girl is a miss. Me no wanna see more frustration and violence for my queens. And I sing, when I listen this tune with me scream Bless the ladies. The mother of my life, sing with me tonight, night. Bless the ladies. Make what I do when I listen this tune. You know the messages. Bless the ladies. Come and send a wave and love a deep pump, pump. So baby, I chant, chant. Bless the ladies. Make what I do. Yes, mom, then sing with me. Bless the ladies. The mother of my life, yes, sing with me tonight. Bless the ladies. Make what I do when I listen this tune. Mama Maria's chant for you. Yes, the love of the plan represents the women, yeah, chant. Bless the ladies. Bless the ladies, every girl is a miss, miss. Bless the ladies. E continuiamo l'intervista. Torniamo direttamente alle domande. Indubbiamente negli ultimi anni è cresciuta molto l'attenzione mediatica intorno agli sport paralimpici. Anche voi atleti siete stati molto più esposti. Questo momento te lo vivi come un peso, come una responsabilità, una possibilità? Beh, sì, l'attenzione mediatica intorno agli sport paralimpici è sicuramente cresciuta. Io ho imparato negli anni a gestire, diciamo, anche la mia notorietà, la mia esposizione a critiche, commenti o anche semplicemente al fatto che venissi e vengo tuttora continuamente interpellata su vari temi, quindi insomma bisogna essere sempre sul pezzo. E chiaramente più ci si avvicina al grande evento, che di solito ogni 4 anni, questa volta sarà ogni 5, perché Tokyo doveva essere 2020, è diventata Paralimpiade del 2021, La vivo sicuramente sì, come la mia terza, quindi con molta consapevolezza, e questa pressione mediatica la so gestire, ho imparato a gestirla in questi anni, quindi diciamo che ora posso anche un po' giocarci e fare un po' quello che mi pare. Sicuramente poi arriveranno a comunque parlare sempre della competitività con le mie avversarie, cercheranno magari di estorcermi qualche dichiarazione sui miei obiettivi, tempi e quant'altro, però insomma ormai è qualcosa a cui sono veramente abituata e quindi sono molto contenta invece che stia crescendo l'attenzione. Però ecco, ci sono ancora dei momenti, vi faccio un esempio: poche settimane fa si sono conclusi i campionati europei di nuoto, sia diciamo dei normodotati che dei paralimpici, e il presidente del comitato paralimpico ha detto che la copertura mediatica per lo sport paralimpico in questi europei è stata totalmente ignorata, cioè i giornalisti si sono concentrati solo sugli europei dei normo, perché in quel caso diciamo avvenivano nello stesso momento. Olimpiadi e Paralimpiadi saranno in due momenti diversi, però insomma questo deve comunque far riflettere sul fatto che c'è ancora molta strada da fare per arrivare ad avere una pari dignità non solo sulla carta ma anche nei fatti. Come detto, ci siamo conosciuti presi a bene nelle serate reggae. Quest'ultimo anno è stato un anno fatto di show in streaming e allenamenti casalinghi, per modo di dire. Come l'hai passato? Come l'hai vissuto? Sì, in questo periodo senza serate devo dire che mi è mancato un grande sfogo fisico e mentale, quindi ho cercato di incanalare tutte le energie proprio nell'attività fisica, allenamenti a casa, poi appena si è potuti uscire ho veramente raddrizzato il tiro, perché dovete sapere che per un'atleta paralimpica, comunque con una gamba amputata, che si allena, andare anche a fare le serate diventa qualcosa di impegnativo, soprattutto quando gli allenamenti aumentano. Quindi diciamo che in ogni caso avrei dovuto fare un po' un sacrificio, ecco, magari non così drastico proprio di evitare totalmente qualsiasi serata, però il lockdown lo ha imposto a tutti quanti. E quindi sì, da casa sì, qualche streaming, qualche show in streaming l'ho visto, però non è la stessa cosa, chiaramente finisce lì, ti manca l'ambiente, ti manca tutto. Una delle cose che non mi è mancato è respirare il fumo, perché alle serate io veramente impazzisco con l'odore di fumo, principalmente mi dà fastidio più quello di sigaretta, ovviamente, però insomma quello non mi è mancato. Tutto il resto sì, la gente, voi, la musica potente, i bassi, i cocktail che si rovesciano e tutto, ma sono sicura che non è finita qua. Come immagini sarà la ripartenza per le serate ovviamente, ma anche per lo sport in generale? La ripartenza per lo sport la stiamo già vedendo, tra poco riapriranno le piscine, le palestre, piano piano si ritornerà ad una pseudo-normalità e chiaramente avremo tutti molta più attenzione alle distanze. Questo vediamo come verrà gestito, perché io credo che poi in un attimo ci riabitueremo a pian piano riavvicinarci anche fisicamente. E la ripartenza dello sport, credo anche che dopo questo periodo in cui tutti ci siamo resi conto di quanto sia importante muoversi, non escludo che magari degli ex divanisti diventino invece più attivi, no? Anche proprio perché fa bene. E per le serate, anche lì io spero proprio di poter tornare a brevissimo e soprattutto spero anche che tutti i vari gestori di locali, gli artisti e tutti insomma quelli che fanno arte e musica possano finalmente con questa bella stagione tornare un attimo a respirare e poter dare sfogo appunto a quello che hanno tenuto represso in tutto questo periodo. e quindi intanto ci saranno le prove generali adesso, primavera, estate, e poi vedremo, ecco, con l'arrivo della prossima stagione dopo l'estate, quindi autunno e inverno, come sarà. Io cerco di essere positiva perché ho visto che adesso con qualsiasi tipo di piccola libertà che ci danno, insomma, io gioisco e spero che possa essere così per tutti quanti. Quale sarà il primo concerto, o quale sarebbe il primo concerto che vorresti rivedere dal vivo? Ma di concerti dal vivo li voglio vedere tutti, però ecco uno che mi è rimasto qui perché proprio non avevo il biglietto, ma non ci sono potuta andare a causa pandemia, è quello di Willy Peyote che avevo preso per marzo, tipo, e poi ciao, è stato impossibile. Quindi spero che in qualche modo riuscirò di nuovo a riprenotare perché ogni volta che ci provo mi dà sold out, è un casino. Come sta andando la preparazione per queste Olimpiadi, per queste Paralimpiadi che a breve, ti vedranno protagonista a Tokyo? Per le Olimpiadi, per le Paralimpiadi in realtà mi sto preparando, sono venuta qui a Roma ad allenarmi al centro sportivo delle Fiamme Gialle, appunto di cui faccio parte, e qua è chiaramente una vita un po' di restrizioni, però ho deciso di prendere questa decisione perché qua c'è tutto, ci sono gli allenatori super formati, ci sono le palestre, la palestra gigante, il campo, la piscina, il fisioterapista che ti segue quando vuoi, e quindi questo periodo davvero lo sto dedicando totalmente a questo, cioè da un estremo all'altro, ecco. Quando bisogna farlo si fa, e poi mentalmente mi sto preparando anche appunto ad affrontare un'Olimpiade, una Paralimpiade che sarà probabilmente senza pubblico, avrò però delle grandi avversarie quest'anno, cosa che non ho mai avuto, diciamo, un'avversaria negli ultimi 10 anni così forti da veramente minare il mio posto sul podio, e quindi, insomma, non si scherza. Ciao ragazzi, seguiteci, mi raccomando, baci, bless. E allora, grazie mille a Martina Caironi, ribadiamo davvero, è stato un onore avere la possibilità di ospitarti nella nostra trasmissione. Ti facciamo ovviamente un enorme in bocca al lupo per la gara di domani nel salto in lungo e soprattutto per le Olimpiadi. E adesso continuiamo con la trasmissione. Questa è Port Royal, tutti i mercoledì dalle 21 alle 23, Pirate Radio, Yuno! Skeng skeng skeng skeng skeng skeng skeng skeng skeng skeng. Ringraziando ancora Martina Caironi, facendola ancora un grosso in bocca al lupo per la finale del salto in lungo che avrà domani, e ancora i complimenti per la medaglia d'oro invece conquistata ieri. Partiamo così, Port Royal, tutti i mercoledì dalle 21 alle 23, Ilario, Pondi Control, Tavoli, Pondi Mike. Then you will see every day. I'm feeling high, so high. Pranga, pranga, pranga in my pranga, pranga, pranga, pranga, pranga. Every day they talk, wondering, wondering. Do skenga, you skenga, believe skenga, in God? Do skenga, you skenga, believe skenga, in God? Skenga, skenga, you skenga, would skenga, me. How are we feeling? Katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika. Skangal Soupy Awards, morbidi morbidi, cominciamo. Ilario, Pondi Control, Tavoli, Pondi Mike, Faia Pom Babylon in session. Questo è Port Royal, tutti i mercoledì 21-23, Piratae Radio. got to know for real. Changa, changa, changa, changa, changa, changa. Got to know. Changa. Skenga, skenga, skenga, skenga, skenga. Ci ha lasciato qualche settimana fa. Me in a golden spring. Tell the women 3 piece suit and thing. tell you when me time and stop and think. Man, man, turn on and say. Oh yeah. My day hurts to know you're going away. It seems like my life begins to ruin now that you're departing pretty soon. But what more can I say? Sad to know that you're leaving. Even though it's kind of grieving, sad to know that you're leaving. Solo a comincio, a Ilario ai controlli, Bombo Selection, senti Gregorio. You can send me a postcard, mail it on to do same yard. Loneliness brings, but Jah will guide you out in coming in. What more can I say? Yeah, sad to know that you're leaving. Even though it's kind of grieving, sad to know that you're leaving. But Jah will guide you out in coming in. Oh yeah. After you made my day, hurts to know you're going away. Like my life begin to ruin now that you're departing pretty soon. What more can I say? Yeah, sad to know that you're leaving. Even though it's kind of grieving, sad to know that you're leaving. E questa la sapete tutti e tutte, massicci e massicci da casa. Ready, feel ready, questo è Toots. Pronti per il 1, 2, 3 time, eh? You hear what I say, sir? Get your hands in the air now. Then you will get no hurt, mister. You know what I say, sir? Just what I mean, sir. Get your hands and your head now. Then you will get no hurt, mister. Join the army. 13 days they son. Give me a number now. And he said, what's your number? I don't answer. He said, what's your number, man? I don't answer. He said, what's your number? He said, what's your number now? I said, yeah. 54, 46, that's my number. Oh yeah. 54, 46. That's my number. One more time. 54, 46. That's my number. Whoa. 54, 46. That's my number. Give it up. so sweet, as sweet as candy. But honey, beat your kisses by a million miles. Your kiss is sweet, as sweet as candy. But honey, beat your kisses by a million miles. Sai Rita, e questa è The Zombie Jamboree. Do se le capa Ilario ste chun o sa solo lui. It was a zombie jamboree took place on an island cemetery. Some from a part of the island, some of them were great Calypsonians. Since the season was carnival, everybody was a jump up in Bacchanal. Hear the chorus, back to back, belly to belly. Well, I don't give a damn, I done dead already. Back to back, belly to belly was a zombie jamboree. Sing it up louder, back to back, belly to belly. Well, I don't give a damn, I done dead already. Back to back, belly to belly was a zombie jamboree. One female zombie, she wound the head. See how she jumping up on the grave. In the left hand was a quarter rum, in the other she beating a bonga drum. The lead singer stopped to make it rhyme. Zombies are rattling their bones in time. One bystander had this to say, what a pleasure to see zombie break away. Hear the chorus, back to back, belly to belly. Well, I don't give a damn, I done dead already. Back to back, belly to belly was a zombie jamboree. Sing out the chorus, back to back, belly to belly. Well, I don't give a damn, I done dead already. Back to back, belly to belly was a zombie jamboree. Giustamente se legava perché c'è studia, era un complimento, mica. E oltre alle massicce, le massicce all'ascolto, salutiamo come sempre anche la regia, la giuria di qualità, parentame vario, amici e amiche. Vi ricordiamo che domani ci vediamo tutti allo Zobar dalle 17 insieme al compare Mino, fino alle 22:30. Vai a Bombabilon, DJ Priest, Aspra Posse, special guest Tini, Jalesian, Jungle Mask. E dalle 20:30 special hip hop raga showcase Nori, Uri de Furi H Crono. Chef e se maregge, due pezzi ve li canto pure io. Dio lo Ilario. Proprio dalla regia mi segnalano donne e compagne. Quindi dai Stefania. I don't know clothes I wear. era spento il microfono. Dai Stefania e dai Natalia. Midnight Rider, che è un po' come il Cavaliere Nero, eh? It's a message to you, Rudy. Running about, it's time you straighten right out. Stop your running around, making trouble in the town. Ah, Rudy, a message to you, Rudy, a message to you. We don't wanna Rudy, we don't wanna dance crasher. You're growing old. Unity is strength. You want to think of your future, or you might wind up in jail. Bella Roma Underground Movement, che oggi pomeriggio festeggiava i suoi 10 anni allo Zobar, dove vi aspettiamo pure noi domani, no? A message to you, Rudy. A message to you. Che volemo bene a chi ci vuole bene. Israel. you rock my boat. Don't rock my boat. Cause I don't want my boat to be rocking. Don't rock my boat. Oh please, don't you rock my boat. No, no, cause I don't want my boat to be rocking. Don't rock my boat. I'm telling you that, oh, oh, oh, oh, oh, oh, I like it like this. So keep it steady like this. And you should know. Ultime due tune. Questa non aveva certo bisogno di presentazioni. Bella Satisha, bella Luca Ruzzi. Tutti massicci alle massicce all'ascolto, Giulia, Perla, Daniela, Alfred, Astra Posse. Se mi scordo qualcuno scrivetemi che così vi saluto. Baby, come tutti i mercoledì, uno dopo l'altro, tutti si lecca. Poi a Pom Babylon in session. Pronto di qua. Don Osh. Even after all the murdering, even after all your suffering, so you know I love you so. You know I love you so and so. Even after all, I'll let you go on, sir, is the order of the day. And I'll let you believe, sir, is the order in this society. You know I love you so. You know I love you so and so. Even after all. This is my money, y'all. Man just feels satisfied. No competition, no competition at all. I just feel sad to start. Them eyes, a gorgeous girl. No demise, a prize. I got to raise it again. Them eyes are gorgeous. I must advance. I don't check for no superficial. It's got to be beneficial. These sonic fruits. These sonic fruits. Sides. These sonic fruits. Got them moving around. All right. Hyperplay. Stepping and rising. Things run road like like a taxi. Glued to my rug like epoxy. No Gary News, labba labba, me on a foxy. That's why no so smooth, lay down in a casket. Me trot straight in my lane, cause there's no traffic. You must sleep good in peace or a taxi. Cause nowadays everybody is a John Wick. Your choice will be easy just like a one tree. No way, no way. Life getting harder each and every day. At school, at work, in a public places. At beer, gin, and sheep and screw faces. Gin, gin, gin, gin. Gin, gin, fresh tune. Osh si detta ai controlli, tavoli, fondi, mic, questo è Port Royal, tutti i mercoledì. Smiling on your face, I'ma take your place. Cause enough for them the boat, yeah. Only one go erase and make you fall from grace. With no one them the boat, yeah. Original, that means say them a creep, me not no time for them. Them so evil, them a send a little spy for them. I'm gonna see how your money are rolling, patrolling. The money rolling enough. Some people them a bluff. You have to know who's who and who is them. Just know how to trust. Me not no time for them people. Hey. Wicked and evil. If this way things are gonna run, I want a Babylon sequel. Gin and gin and gin and gin and gin and gin and gin and gin and gin and gin and gin and gin and gin and gin and gin and gin and gin and gin and gin and gin and gin and gin and. It's life for I and I. So when I'm down, I play a good song. You and your negative vibes around me now work, yeah. I hope this feeling does last for a little while. Coming off the nice time for so long. Catch a vibe, just watch out for bad my name lurking. Ready for broke your vibes again. Pull a meds, love your life, it's a gift, yeah. Get the meds, grind it up, pull a spliff, yeah. Do something now, we make enjoy life. A girl, fly away, take a trip, yeah. On the beach, see the water, take a dip, yeah. Do something now, we make enjoy life. And stop carry feelings, girl. I'm steady, holding firm. But you want another tip, so what you need is don't even know you no more. You're too bad, mind. You sell your soul just to gain the world. You know, say it's all a trick, so what you need is don't even know you. I've never been like this before. Until I met Jalom, Jalom, Jalom, Jalom. Why I? Jalom, Jalom, Jalom, Jalom. I now I've got this feeling, this lovely feeling. And every time I get this feeling, I wanna dance. I got this feeling. So I'm here to show you, you're the only woman I want. Yeah. Love is not to rock our boss. Love is what the world need the most. It's time to speak it in every language. We're fed up of the evil force. It's time to shout it coast to coast. In love there is no bandage. So as a king you have to defend your throne. Never never let your problem get you down. Might live a country or you live a town. Every man and woman a walk the same ground. So if you're living in a glass house, not to a stone. Remember every dog I look. Quanto fa estate e quanto fa festival alla voce d'Antonio Cazzarola. And every time I get this feeling, I wanna dance. I got this feeling, girl, your love is my I got this feeling. Domani quel feeling lo sentiamo allo Zoo Bar, venerdì al Coconut. Reggae party, Parco delle Sabine, uscita Gra, Porta di Roma. Inauguriamo un pezzo del tropico a due passi da raccordo. E ovviamente domenica ci si vede all'acustica Azio, no? So never lose your hope and your faith. A time to put your mind in a higher state. If you want to choose, I am dead. Praise Rastafari, the man great. We got no time to sit and debate. I want to dwell in your holy place, and I don't want to be late. No, I got this feeling, this lovely feeling. Them loyal, casual or formal, them selling a normal. So them immortal, more than a drawful, we give them awful, wicked and lawful, and we not stopping, no. And no time for no stop life, man I travel at top speed. But this are the top flight, this are the big league. So every 8 bar or 16 is a big deal. Food for your heart on a kid's meal, package it papa it in seal. Recipe of a master, why they can't boil water. Cooking up a recipe a disaster. That's the reason, this is my season. Them my degrees are torture. Carry the tartar, different peaks. So regular people now walk up. Me a compete with my parcel. And this what making me sharper. Look how we achieve every quarter. Maybe for we make a quarter. Always have heart, so when times hard, we pick up and we a go harder. None of my people not starve, yeah. Me have the will in my palm. Take it and bring it a yard, yeah. Them say they love we, but I got you see it. Get where them want us to cheat up already. Them not go try we out on no no today. It not so easy if you train me energy. So God bless us follow anywhere where we dey. A good with everybody. No day of the same. Them say them love we. Ready for the target. We get the top of the market. There is ever a problem, listen to the album and that will solve it. We are tired, clean me yes, I get. When I go with the flow, we are head tight. Sevilla will it down like a Jedi. Couple souls, couple days, pan a boat in a bed and the dungeons come in pan a red eye, bro. Cerebral flow in my head, I go. Try reach me now, but my cell line's low. I keep it low, it's like red, I go. Try teach me how, but I said I know. People know me like you, like hope, and I need to know. Premise when I show, I collect my dough, do my thing and go. Yo, when you say hello, proto, the world know to, them one more to. Touchdown UK, sell out show. New minister culture, we get some vote. A regular we have to transit to airport. And I make a way outstanding to airport. So if I get on me belong me to engross. And if me ever Coffee and Protégé like Bombo Remix. Play the harmonica. Dig it down the body from the planet. Supersonic tougher than a granite. We are professor, them are the janitor. Oppressor, them are threat and a panic. So you know see the difference of the caliber. Run no less than a comic when we drop it. That's what I say about. Them say them love we but that I can't see them. Boy, chant that sweet. King Kong, Manu Digital. Ancora King Kong, Time is changing, sta arrivando l'estate. Osce i controlli, tavoli, pondi, mic, questo è Port Royal, tutti i mercoledì 21-23, Pirata e Radio. Take a look at the world is changing, oh, oh, oh. I take a look at the world and time is changing, oh, oh, oh. I take a look at the world, be careful my brethren and sisters, oh, oh, oh. I take a look at the world, some people are changing. Oh, oh, oh, I take a look at the world and time is changing. Oh, oh, oh. A lot of people I know, their minds need rearranging. Oh, oh, oh. A lot of people I know, their minds like not working. Oh, oh, oh. Them better know the time, as them go get left behind. Them better know the time. Pensavate che, e invece no, è la Yeah Prophet. Feel like a king. Like a king, when I'm in your eyes. The Legacy, Scaramucci, Listen Up. Children. Let your music play, let your music play. Let your music play, let your music play. So let's give thanks and praise with the reggae where we love. One of those blessings from the Father above. Just keep on free from war and grudge. But we still are mingling our love. Man and woman, them a dance, them a kiss up on the hour. Let your music, and them a fall in love. Everybody happy for them, not shed no blood. Ancora Antonio, stavolta con Featuring, Get Loose. It's dangerous, but you can blind your eyes. When in your neighborhood, you know the indifferent size. People behind that screen, they doesn't realize what happens around them, or is it just an alibi? People kill people, seems to be in a horror movie. How can you trust the words of this corrupted jury? They call security watch instead of barriers, because you need this power, for them is carrier. Heard of wisdom on America round, by dint of turning their foes to the ground. I don't know what they are talking about, they want to shut our mouth. You gotta get loose from the politics of violence, we are the enemies of silence. You gotta get loose, you gotta take care of yourself, and don't be afraid to need a help. Hey, Axel, the reggae band. Of violence, we are the enemies of silence. Produzione Red Golden Green. Take care of yourself, and don't be afraid to need a help. Rebel Reggae Band. E l'amico Axel, che 30 giugno del 2012, senza Antonio, scese per quella che fu la più grossa reggae marathon organizzata al Villaggio Globale. Tra i ricordi di molti, in questi giorni uscirà fuori. Fight for liberation, fight for the freedom of we nation, fight Italian and Jamaican, time to put an end to political damage. E Axel si imbarcò a gratis per venire a suonare, anzi a cantare al Villaggio Globale. Bless up yourself. You gotta take care of yourself, and don't be afraid you need a help. Yeah! E bella per tutte le altre volte che ci siamo visti, Axel, sempre nel cuore. Babylon. Big Sono Taruma, Sierra Maestra, Hotel Lotowili, Osh, Smash, Hilario, Step Up, and play the rhythm. Come! A proposito di Red Golden Green, Federico Virtus, speciale per noi, e poi Smash, pronto da qua. Music catch a fire, fire from bubble and make me inspire. So music make the fire blaze. Music catch a fire, fire from bubble and brings you higher. Give me the fire blaze. You are my sunshine, fire from bubble and I'm yours. Food for my heart and soul, the only sound I need some more. Massive, can you feel the love? I come fire from Babylon, I play. Massive, can you feel the love? Aye, massive, can you feel the love? I come fire from Babylon, I play. Massive, can you feel the love? Player 45, big sound, no big surprise. Into the overdrive, I saw the people get mad and I go multiply. Real sound, I find. Miss a straight for no big for light. No fun, I'ma blind your mind. Put fire from Babylon, I unify. You know this sound can bring you higher. Fire upon Babylon, I play. Your is on fire. Switch up on a beast. Put up your lighter. Big sound, I play tonight. You are my sunshine. Fire upon Babylon, I'm yours. Food for my heart and soul. The only sound I need some more. Massive, can you feel the love? I come fire from Babylon, I play. Massive, can you feel the love? Aye, massive, can you feel the love? I come fire from Babylon, I play. Massive, can you feel the love? Just only big shoes them play. Too much bad music nowadays. Take your little time. Don't you be unkind. Like them used to be young. I told them time, play music make me a better man, eh. Now I see the light, and I call the vibes. Fire upon Babylon for life. Fire upon Babylon, a chat and a chat. When me was a little, you was all in a dot. Them not go chin, I told them time. Play music make me a better man, eh. Now I see the light, and I call the vibes. Fire upon Babylon for life. You are my sunshine. Fire upon Babylon, I'm yours. Food for my heart and soul. The only sound I need some more. Aye. Massive, can you feel the love? I come fire upon Babylon, I play. Massive, can you feel the love? Aye. Massive, can you feel the love? I come. Ringraziando ancora Federico Virtus per la collaborazione con Red, Golden, Green e soprattutto per gli specialini che ci dà, e ancora di più per quelli che ci farà se non viene domani a sostenere Aspra Posse, visto che abbiamo un video compromettente. E qua ripartiamo. DJ Smash, Coffee e Prodigy. Woman them royal, soldier them loyal. Casual or formal, them selling the normal. So them immortal, yeah. More than a jawful, yeah. Rhythm them awful, wicked and lawful. And we not stopping, no. Man a time for no stoplight. Man a travel at top speed. But this are the top flight. This are the big league. So every 8 bar or 16 is a big deal. Food for your tart and a kid's meal. Package it proper, it been sealed. Recipe of a master. Them boy they can't boil water. Cooking up a recipe a disaster. That are the reason, this are my season. Them a degrees a torture. They're ready torture, different peaks. So regular people now walk on. Me a compete with my past self. That is what making me sharper. Look what we achieve every quarter. Maybe before we make a quarter. Always have heart, so when times hard, we pick up and we a go hard. And none of my people no starve, yeah, yeah. Me have the world in my palm, take it and bring it a yard, yeah, yeah, yeah. Them say they love we, but I can't hear see them. Get where them want and switch it up already. Them not gonna draw we out on no, no today. It not so easy if you drain the energy. God blessings follow anywhere where we dey. How good we good with everybody. target. We get the top of the market. If there is ever a problem, listen to the album and that good to solve it. We are tired, clean, we are said I can. We not go with the flow, we are head tight. Severe, will it down like a Jedi. Couple souls, couple days, pan the road in a bed and the dance just come in pan a red eye bow. Cerebral flow in my head I go. Try reach me now, but my cell line slow. I keep it low, it's like where I go. Try teach me how, but I said I know. People know me like you, like hope, and I need to know premise. When I show, I collect my dough, do my thing and go. No, when you say hello, proto, the world auto, them one motor. Touchdown UK, sell out show. New minister culture, we get some vote. I regular, we have a transit to airport. And I become we outstanding to airport. Could you forget where me belong, me to engross. And if me ever drop a song, diggy reinforce. Yeah, strong like a tonic. Be the drum and then play the harmonica. Diggy down the baddest on the planet. Supersonic, tougher than a granite. We are professor, them are the janitor. Oppressor, them are pretend and panic, so. You know, see the difference of the caliber. You know, less than a time, if we drop it automatic, say so you're DJ Khaled. I had to level up, I was too patient. Back to the hood, we gon' back to the basics. They said they hate you, but smile in your face. Jump through that shit, now my fingers is aching. Diamond red hunnids, they know how we coming. I'm making my money, y'all double and tumble it. That's how we do, coming through running shit. We going up, ain't no stopping this. Caribbean water, the diamonds hit. We win the championship, that's an accomplishment. I take that back and I double it. Flooding my reach, if you play, you get kinda lit. Yeah, we on. Stick with them, stick with you. Oh, we are cha-cha picking it. This is a stick up. Babylon want me for trip up. Up on my knees. It's a stick up. The system want me for kiss up. And beg them please. This is a stick up. Babylon want me for give up. But I proceed. Those who are to help me are trying to make me fall. Papa cry and mama ball. Opportunity so small. And the stress is in excess, the pressure's growing tall. Rules and regulations, the order of the day. Take away our freedom, this is captivity. Kill me with taxation, living on the edge. This is abomination, what about creation? Abusing mama earth in the name of vanity. Dig it up, you frig it up, what a calamity. In case you never know, craving a for choke puppy. And mama nature have the rata, fire, water, earth and wind. Personally I blaze, hope the fire red. Cast it down and gaze as Babylon destroy the ends. Personally I blaze, hope the fire high. Babylon tell and them off a sticker, you tell them don't even try. I believe them the wise and street smart. Now sell out, you know we got. Beat the system and prisma. For every ghetto youth in the streets, I want to say lion call. Out there, out there. Out there, out there, out there. Out there, out there. Lion call. Out there, out there. The youths them in the streets, them move sharp just like I am. Sa de la Vega, where pre good behavior and I wall it down in under the town. For you, them up a rock fort, we're solid like a rock stone, stand firm like roots in the ground. For you, them down a standpipe in the streets like a stoplight, now stop till food in the zone. For the one, them run a TG, juggle CD, DVD. For the ones, we're alone, bust down a town, and you say chronics in the air. Get up and up and up, get on you, no, no, no, no, no, never, ever, life is never, never, oh, never lost a man too clever. Nah live like them fella, nah go live like no monkey, nah no gorilla. Them is not for the poor, only for the dollar. Yo, so me know things nah go better. Yes, I rise with love this morning. In a the evening, I just love again. Night time come, we still a show love again. Cha-cha still a show me with more love again. Whoa, another body gone without meaning. See, they know things get rough again. Another get a youth in a handcuff again. Capable and laws and the rules suffer them. Everything was white, so me not compromise. Fireburn, all ignorant, hypocrite. Them organized crime and I beat late at night. Then come around and I reason polite. So I will never, ever swear against my mother. Never, ever fight against my brother. Never, ever rise against my elder. Never, never, never, ever swear against my mother. Never, ever fight against my brother. Never, ever rise against the elder. Never, never, oh, never rust a man. Never, ever. DJ Smash ai controlli. Solid as a rock. What a bomba rock stone. Pirata e radio. Questo è Port Royal. Tutti i mercoledì fai a bomba Babylon in session. But them empty, we have to find food for it. Every day we terrorize by soldier police. When they think them a strong man, they think them a dead. From them a black cowboy and Indian and chief. From the first to the third straight of the seventh street. One thing in our mind, we trample the base. I make it in our life, I inherit as the meat. Them pay off, self-employed, cannot get laid off. But I work me off, can't even get a day off. Who do you want to stop me now? Them final say them way off. Alright, Tommy say one by one, one by one, one by one, we stepping out of Babylon. And then one by one, one by one, you King Selassie say I the conquering lion, lion, lion. Rockstar, watch my pillow. Rockstar, watch my pillow. I say, rockstar, watch my pillow. This is like a luncheon. Rockstone, Steve Raga, Mali. Help us now, take us from the slum. Never give up, but I want to clip on your bun. Hell, Rasta, take us from the slum. Never give up, but I want to kiss Selassie, I'm blessed to go. Separation is a thing, could be no harder time. Got to widen your views, got to broaden your mind. What we find, sin, they can't know where it's gonna find. Hunger, poverty, a system so unkind. As a matter of fact, there is an aftershock. When come ground us, my bed and my pillow was a rock. Trying to make it through the system, all the doors were locked. Yeah, nothing me to try and so I ain't gon' stop. All the time they write a book on you. All sorts of other crap they would have put on you. Yet when you're in through there, they would look on you. They would only stand and wanna wipe the foot on you. But so see ya. Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? crystal star bright. Goodbye, Babylon, goodbye. Puppet masters are forces and the nations. Half world world is a bright future chanting. Yes, talking to the garrisons and tell them often. Fear Dallas, your brother, yellow tape and chalk him. If knowledge is your guide, a better life you're starting. Cause how the system set you wider, sink or swim. Racial debates are start more anger sparking. Thoughts with the precious melanin of our dark skin. I would like to see the day when my words will spark a change. Or is this just another hit song? As my verses and my melodies, them it's strong. I wanna know if that's completely strange. For my words to spark a change. Or is this just another hit song? As my verses and my melodies, melodies. What if what you see is not really what it is? Their vision is a scam to divide the families. They call our children kids. Subliminalities is deep. They want your future kings and queens to grow up into sheep. What if every man was just another man or woman? We're soldiers in this one love mission. We're all the same red blood pumping through our veins from our original Big Queen, Queen Africa. Cause I would like to see the day when my world. Questo è Port Royal, tutti i mercoledì dalle 21 alle 23 su Pirate Radio. Per chi vuole collaborare con noi, ci scriva per presentazioni o per trasmissioni. Siamo sempre qua. Settimana prossima, Reggae Roots Band, intervista con la coppia dei singer della band. Like PlayStation or a Xbox One. I saw the world leaders play with nuclear weapons. A man just say fep, them ready for Japan. Afghanistan and Uzbekistan and Japanese them face the devastation. American always member Saigon. Ask God all the questions, me can't answer one. Them should have scrapped the Manhattan program. Every day we have it. Pray, every day. One psalms a day. Keep the devil away. One psalms a day. Keep the devil at bay. One psalms a day. Keep the devil away. One psalms a day. And Jah will show you the way. Peace and body where every good girl deserves. But I want to love this girl to mess with my nerves. Blessed with figure, not to mention the curse. Show the corner of her eyes, she slowly observes. See ya. Anytime she come around, something is about to go down. Listen to the siren sound. Wake up right now. Cause if I was to go to sleep, catch me dreaming of a way to creep. Trouble always seems to follow me. Oh, don't follow me now. I tried to tell her, no, no, no, I already have a friend. She said nobody has to know, but I've got to let her go. So I had to walk on by. Dancing right in front of me, trying to lure me in between the sheets. And I'm a man and I still get weak. I'd be down if I lose my girl. I'd be down if I don't touch her. Curiosity, you killed the cat. Oh, and I don't want that song. can't fight this feeling. Oh, no. Woman, you're nice. Smile on your face is like you rise up on my life. Girl, me can't wait to give you everything you like. Hope you from the day your Christmas sight. I guarantee that you'll be satisfied. Don't be afraid to break the rules. DJ Smash, Pondy Control, cavoli, Pondy Mike. Questa in realtà è la selezione che Smash ha fatto in diretta e anche in streaming e soprattutto in presenza ad Acustica Anzio, dove torneremo anche questa domenica. L'aspettiamo tutti là. Reggae presa bene dalle 17, perché si sono allungati gli orari. Reggae and Food Yardi, domenica, Acustica Anzio, nuova sede al Bottaccio. When I see my friends become my enemy, I have to far. No any of them will not go. No link, no part. Cause I know dirty hand can't sweep with broom. They are like the trees when can't bloom, and they shall slowly fade away. And I know dirty hand can't wash with soap. The meditation twist up like and they shall slowly fade away. But I'm a massacre in no domain. Not for them not go like that junior. Why? Bad man stuck in a them head like a tumor. Them fake like tree stripe. Pan a night made by Puma. Them devil leap a lies, not only by rumor. Start go, you're not to them. I said you got a code. Get your visa, you fly out. Them a pray for you, drop out them. Sit down like I calculate by in and you account them. Say them are your friend, but them aren't mama for me. Say, well, dirty hand can sweep with broom. Good and ever. They are like the trees when can bloom. Good and ever. They shall surely fade away. And I know dirty hand can wash with soap. And there is no bad mind on the road. They shall slowly fade away. Then you go along with tell them same fist and fight. Can't son of the dead enough for them a come and act like. Them are your brother, them good for flip back bite. Watch them kill it pretty soon, them a go. Go show them colors like a stoplight. Them color down a brass fight. Them ask a dirty mark to scour with a scotch right. Them need a whole reservoir of jelly water to wash off them out. That could do only in the bad one at the standpipe. Find out, dirty hand can't sweep it. Good as ever. They are like the trees I can't blow. Good as ever. Nobody. Some people in a day argument about ganja this and ganja that. As a matter of fact, give me lots of that. Them have to overstand we under that. I'ma say, rolling it, rolling it, rolling it, rolling it, non-stop, smoking it, smoking it. E ci avviciniamo alla fine. Bullet Era Rhythm Mix. E poi un altro bel Rhythm Originale Kill. Per finire la selezione di Smash. Ready, feel ready. Poi ultime due ciumpe per me e tutti a nanna. Rolling it, rolling it, non-stop. Smoking it, smoking it, smoking it. You know we can't stop. Fly high and praise highly high so we can't flop. Requested from Budapest straight to Jamrock. A healing of the nation, enough people want that. It make we ease up, we mind and not fall back. So every reggae festival ever jump back. But the one they run crack, that's how make you fall flat. Police move from on ya, this could never harm ya. Them say dangerous. Fade away anymore. Life is better than silver and gold. Take care about yourself, then you go. Save your gunshot, give me get off a war. Don't let your soul fade away anymore. Life is better than silver and gold. Take care about yourself, then you go. Save your gunshot, give me get off a war. When I'm singing and I'm smoking and I'm fucking, I'm free. Me no bling, me no gum, me no in of this, your blood clot things. I man no fuss because I'm feeling a read until all night long till the sun arising. Many gyal are coming at the dance kissing me. Come here the Italian fire, me give them love guarantee. Ask me a question, you'll get a response easily. So please come bring your back to me, lady. Don't let yourself fade away anymore. Life is better than silver and gold. Take care about yourself, then you go. Save your gunshot, give me get a power. Don't let yourself fade away anymore. C'è una triste realtà nel ghetto di ogni città. Dammi una cave, una cavita, bombo cra. Questa qui che spacca, comunque in ogni app. C'è lo stile più bad, con i migliori da. Fina bulli tira, fuoco cata va paga, mina ca. Fuoco a vampa, in a bulli tira. C'è te casato e non si può più fermare. Se ti piace alzare le mani in aria, è meglio di qualsiasi altro droga. Comunque in ogni danza e pure in ogni class. Tu sound prende il forward, la gente in porta. Il DJ spacca, non si può più fermare. Yavo mo, chi la chiama? Sia solo buona vibra, un'antananza ca, c'è un giga suona. Devi muovere il corpo e poi lasciarti andare. Devi alzare le due mani in aria di pop pop. Bidabam, bidabam, bidabam, bidabam. Senta chi la chiappa in ogni dance. Bidabam, bidabam, bidabam, bidabam. Yeah, mo, chi la chiappa? Poco a bam, pena bulleti ram. Se sei cansato e non si può più fermare. Se ti piace alzare le mani in aria, è meglio di qualsiasi altra droga. Ovunque in ogni dance, pure in ogni class. Con son prende il format, la gente è importante. Il DJ spacca, non si può più fermare. Gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come, gyal a come ultimi due minuti per DJ Smash, ultimi 7-8 per Port Royal, tutti mercoledì Pirata e Radio. Sento puzza d'infame, puzza di gente senza morale, ehi, d'infame. C'è bene che asciuto a male, in tallare sento puzza d'infame, non mi educare, lasciami stare, via, infame. Una questione fisica, le belle intendo un lupo, tanto insomma fisica, a ne abbandone 10 aperta, tutti e s'attività, bla, l'utente te c'è riscu, provochi acidità, a me a qui da insomma tutta la comunità, shalala, canto e fa su vita, ca. I ma ieni su lui e mi stai falsi da paraca una ed è la possibilità pensa sto già da non tornare oramai è sciugata fammi l'amici doi tu per gli interessi doi basta con picchi la bauda e poi non serve niente giù non vidi mai la per la luce che ti umana fai luce della verità su qua non te riflette mai forte forte sai più forte più veloce fu non muoi battu battu su beh su tagu non ne rimani chiui alla fine dei li punti tuoi su lui tu gadai l'inferno caudo caudo te s'aspettamo ca è bene che asciuto a male in calla. Sento puzza di fame, puzza di gente senza morale, ehi, è infame. Brucia moi, c'è bene che asciuto a male. In calare sento puzza di fame, non me educare, lasciami stare via. Con la folle ma friend in me, no for them a friend in me. Good me, me, bread, gin, the whole of them a enemy. Friend in me, friend in me, no for them a friend in me. Smoke off me graze and then drink up me energy. Friend in me, friend in me, no for them a friend in me. Them more than enemy friend, cause the whole of them a enemy. Friend in me, friend in me, whole of them a friend in me. No matter what they do. Alle serate nostre non troverete mai la puzza di infame. Questo era l'ultimo brano per questa settimana. La selezione dei Fire Bomb Babylon più o meno si ferma qui. Ultimi due pezzi, poi tutti al nanna. Appena sera arriviamo a 23 e poco più. Un 45 che è sempre nella nostra da box. Chiudiamo da dove siamo partiti. Rino Gaeta. Gianna, Gianna, Gianna sosteneva desia e illusioni. Il 45 giri sarà domani nelle vostre orecchie. Gianna, Gianna, Gianna, allo Zobar dalle 17 alle 22.30. Gianna, Gianna aveva un coccodrillo e un dottore. Gianna non perdeva neanche un minuto per fare l'amore. Bless up a tutte e a tutti. Gianna, 41 anni senza Rino Gaetano, il prossimo è l'ultima ciunga per noi, l'ultimo pezzo. Ci vediamo domani allo Zoo Bar, venerdì al Coconut Reggae Bar, Parco delle Sabine, Porta di Roma, domenica ad Anzio, e settimana prossima pure saremo come al solito pregni di serate. Meno male che comincia l'estate. Questa è l'ultima tune. Buonanotte a tutte e a tutti. Lei spogliava i suoi ricordi, le sue istantanee, i suoi tabù, le sue madonne, i suoi rosari e mille mari. E alala, i suoi vestiti di lino e seta, le calze a rete, Marlene e Charlotte. E dopo giugno il gran conflitto, e poi l'Egitto e un'altra età, marce spastiche e federali sotto i fanali, l'oscurità e poi il ritorno nel viso, più rosso d'amore. Aida, come sei bella. Povertà, i salari bassi, la fame bussa, il terrore russo, Cristo e Stalin. La democrazia e chi ce l'ha, e poi 30 anni di safari fra antilopi e giaguari, sciacalli e la pelle. Aida, come sei bella. Questo era Port Royal, tutti i mercoledì dalle 21 alle 23, Pirate Radio. Follow the line, follow the vibes, bless up yourself. Ci si vede domani nella vita reale. Buonanotte a tutte e a tutti. E soprattutto dategli forte. You know.